Ben ritrovati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Sono un pochino in ritardo per qualche inconveniente tecnico con la regia qua di Radio Wombat. Penso che sia la 41esima o la 42esima puntata, ora non ricordo precisamente, però più o meno la cifra era quella. E oggi volevo aprire con qualche notizia e magari dare spazio invece sul chiudere della trasmissione a un veloce elenco dei warm-up che si tengono qua a Firenze a partire praticamente dalla prossima settimana. In realtà sono già iniziati un mesetto fa, però il calendario più fitto è appunto a partire dalla prossima settimana. Si tratta di incontri a tema che preparano l'ACM Meeting di quest'anno, che sarà al Centro Sociale Next Emerson il 30-31 maggio, 1-2 giugno, 4 giorni di incontri su appunto il tema dell'hacking in senso più ampio possibile. E insomma, ci sarà modo di parlarne ancora a lungo, credo, nelle trasmissioni, quindi non mi dilungo ora su questa cosa. Probabilmente già dall'elenco dei warm-up capirete di cosa si va a parlare, o almeno di cosa si parlerà anche. Speriamo non si parli solo di quello che vi elencherò io questa sera. Ma la prima notizia in realtà riguarda una cosa più banalotta, meno interessante, però comunque creativa, nel senso che ho letto poc'anzi che è in giro una nuova campagna di phishing, cioè sostanzialmente il phishing, per phishing si intende un sito o comunque un'azione. Che compite con i vostri maledetti cosi sul web, quindi tendenzialmente un browser, ecco, di solito si parla principalmente di browser oppure di mail. Ecco, l'idea del phishing è quella di indurvi in maniera truffaldina, proponendovi una cosa che sembra, ad esempio, un link legittimo a Facebook o un link legittimo a Google o un link legittimo a qualcosa, insomma, ma così non è. In questo caso si parla di una roba diciamo fatta apposta per i cellulari. È un approccio abbastanza boh, non è che è innovativo, però è abbastanza creativo. C'è anche un video che lo dimostra. È una campagna di phishing. Nel video dimostrativo, ad esempio, ricrea quella che è il layout di Airbnb cioè, quindi, diciamo, sul cellulare. Quindi l'Airbnb. Cioè, l'Airbnb è un sito di. L'avete usato qualche volta per trovare da dormire in bed and breakfast o cosi mascherati da bed and breakfast, cioè hotel che fanno finta di essere bed and breakfast. Però, insomma, questo è lo scopo del sito. Come tutti i siti di questo tipo, c'è anche l'apposito tasto Login with Facebook. E l'idea di questo oggetto truffaldino è quella appunto di indurvi a inserire il vostro login di Facebook su un finto sito di Airbnb, poi un finto login di Facebook, e poi sostanzialmente presentarvi a tutto schermo della vostra, cioè mimare nel vostro cellulare il comportamento del vostro sistema operativo, il tutto però fatto in realtà in JavaScript. Cioè l'idea è quella di ricreare sostanzialmente quello che voi vedreste normalmente, però all'interno di un ambito webboso. E qual è lo scopo di questa cosa? Beh, è quello appunto di farvi pensare che veramente vi siete loggati su Airbnb, che veramente avete fatto login con Facebook e che veramente state utilizzando l'applicazione legittima. In realtà, così chiaramente non è soltanto un modo per diciamo, mimare il comportamento, e quindi sostanzialmente a voi vi vedete un coso con scritto facebook.com, esso però in realtà non è facebook.com, e anche se vedeste Airbnb non è Airbnb, è semplicemente un coso che fa finta di esserlo. Il giochino qual è? Che normalmente se io dovessi fare questa roba con facebook.com, appunto, dovrei bypassare tutta una serie di misure atte a che questa cosa non accada. Quantomeno dovrei indurvi con una cosa tipo DNS spoofing a fare finta che il sito di Facebook è in realtà un altro indirizzo e poi rimandarvi su quell'altro indirizzo. Rimane il problema annoso in questo caso rimarrebbe il problema annoso diciamo dell'HTTPS, cioè il fatto di dover in qualche modo inventarsi un certificato valido, ma insomma si rientra già in un ambito appunto più complesso. Quello che fanno spesso gli oggetti automatici che portano questo tipo d'attacco è utilizzare DNS spoof per fare finta, ad esempio, che un altro indirizzo sia quello di Facebook, e poi rimandarti in HTTP semplice senza la S, e se uno non è molto accorto, diciamo, potrebbe anche cascarci. Ma se uno è più accorto, no. Invece, se io ti copro completamente il cellulare, no? Con un'applicazione che ha scritto sì HTTPS, eccetera, eccetera, ma in realtà è semplicemente una scenografia che io ho imbastito, ecco te, un pochino forse ci potresti cascare di più. Posto anche che spesso appunto la gente sul cellulare non va a interagire troppo con l'oggetto, ma si limita appunto a cliccare, mandare avanti e non interagisce in maniera approfondita. E, come avviene ad esempio cioè su un computer dove questo attacco sarebbe un po' più difficile, perché magari c'hai 5-6 finestre aperte, ti ci muovi, insomma lo noti dopo un po' che sta facendo finta. Sul cellulare invece magari questa cosa non accade, perché in quel momento stai visualizzando soltanto quella schermata. Penso di averlo capito così. L'attacco, c'è anche un video che ne dimostra appunto la tipologia, con appunto un finto sito di Airbnb che fa il login con Facebook. E tant'è, insomma, ve lo raccontavo più che altro perché è una cosa con degli spunti creativi, e quindi ve ne volevo rendere conto diciamo, in quell'ottica che di questa trasmissione, che è quella di cogliere appunto gli aspetti buffi di tutto questo mondo, eccetera. Poi vabbè, sì, lo scopo del sito sarebbe quello di ingannarvi e fregarvi gli utenti, quindi c'è sì, un po' truffaldino. Però è anche una cosa creativa tecnicamente, quindi ve la racconto, insomma, così come l'ho capita velocemente leggendola proprio 10 minuti prima di iniziare la trasmissione. Vi lascio un pochino di musichina, intanto mi preparo una prossima notizia che non sarà una vera e propria notizia, ma è più la recensione di un libro che mi è capitato per le mani nella sua versione digitale. Trattasi di un libro dal titolo Hacking the Hacker, che insomma, il titolo mi aveva attratto. Volevo vedere un po' di cosa si parlava. Sono rimasto puntualmente deluso e volevo appunto fare la mia lamentazione del mese su codesto libro, che insomma, mi è sembrato un pochino un'operazione invece non discutibile, ma poco, ecco, poco interessante. Allora, il libro di cui vi raccontavo prima è un libro di questo signore dal nome Roger Grimes, che io non avevo il piacere di conoscere, ma lui dice che è nel mondo, in questo mondo dell'hacking da un sacco di tempo. È un libro che sostanzialmente vorrebbe parlare di penetration test, e infatti diciamo che si apre con la classica introduzione, cioè che tipo di, in cui ci si chiede che tipo di hacker sei, e vengono presentati le due tipologie che nella visione del mondo di questo signore sono sostanzialmente quelli buoni e quelli cattivi. Ci sono i cattivi, lavorano per i criminali, i buoni lavorano per il bene comune, dove bene comune per lui è sostanzialmente ha un approccio abbastanza diciamo confusamente legalitario, come sono la maggior parte degli americani. E l'impronta del libro è appunto un capitoletto che di solito spiega una qualche tecnica di hacking legata ai penetration test, e una, o comunque tematiche diciamo legate a, e un'altra parte che invece presenta delle interviste, dei profili di persone che secondo lui sono rappresentative in qualche modo di l'area trattata. Per esempio, che ne so, c'è la parte su social engineering e il profilo che viene presentato dopo con questa pseudo intervista, perché poi sono interviste raccontate, cioè non sono domanda e risposta, è quello di Kevin Mitnick, che era appunto diciamo è quello che ha fatto l'immaginario dell'hacking televisivo, tra questo ragazzino che negli anni, fino agli anni 80-90, facciamo fine anni 80, credo, sì, se penso di ricordare giusto, no, facciamo anni 90, che all'incirca negli anni, fino agli anni 80-90, rimaniamo così, dai, fino agli anni 80-90, si è burlato di diversi enti statali americani, burlato male, nel senso che aveva bucato un sacco di robe a sfida, era stato anche in una specie di latitanza clandestinità, e anche l'unica persona a cui cioè che quando è stato arrestato dai federali è stato tolto in carcere l'uso del cellulare, cioè del telefono, nel senso che lui non poteva usare i telefoni mai. All'epoca non c'erano proprio veramente i cellulari, c'erano gli ETAX, credo, non c'era ancora i GSM, e però insomma lui non gli aveva permesso proprio in generale di usare il telefono, manco quello con la cornetta, credo. Era in una specie di carcere che assomigliava un po' al nostro isolamento spinto. Fatto sta che poi dopo un po' di anni lui, in realtà, scontata la sua pena, si è convertito e ora fa il consulente di informatica, di sicurezza informatica, ormai da un bel po'. C'è anche insomma, varie collaborazioni anche con enti governativi americani, e quindi rappresenta un po' l'emblema dell'hacker appunto pentito che poi va a lavorare dalla parte dei buoni. E il libro è un po' tutto su questo tenore, in verità. Ci sono delle parti che sono abbastanza interessanti, e in generale l'impianto di tutto il libro secondo me è buffo, nel senso che io leggendolo mi sono accorto che tutti questi profili si citava continuamente la parola Microsoft, nel senso che un sacco della gente intervistata ha lavorato in qualche modo per la Microsoft, tanto che ho guardato appunto quante volte, cioè quanti di questi articoli appariva citata la Microsoft, e sono tipo, ho trovato 27 risultati che rimandano praticamente a quasi tutte le interviste fatte. In alcune, giusto per avere una controprova, ho cercato la parola Linux, non perché necessariamente sia qualcosa che doveva esserci a tutti i costi, però ero curioso di capire quanto affondava in questo tipo di nel mondo, no, dell'informatica, e volevo cercare di capirlo, e l'ho trovato solo 2 volte, no, 3 volte, 3 volte. E di tutti questi profili, cioè si passa da alcuni completamente folli, ma veramente gente buffa, tipo ne avevo trovato uno che mi aveva, particolarmente colpito era questo Gary McGraw, che io non conoscevo, ma che è anche un musicista, oltre che un guru dell'info security. È un personaggio quanto mai buffo, e ha anche un gruppo musicale che sponsorizza sul proprio sito. Ora non mi ah, se lo riesco a trovare, mi sembra che si chiamano The Bitter Liberals, che siano i The Bitters Liberal, il suo gruppo musicale. Fa questa musichina un po' tra il folk e la New Age. Se guardate il suo sito, si presenta come appena aprite il sito, c'è in alto, proprio in mezzo alla pagina, un simbolo del Tao. E poi nello slideshow che c'è sotto, c'è probabilmente dove abita, che è questa casina che ha un ponticino in legno e altre cose di questo simile. Poi c'è una sua foto con lui in maniche di camicia e con un, credo, o un fotomontaggio, oppure veramente ce l'aveva, la spada laser, quella di guerre stellari. Poi ci sono, no, penso che non sia un fotomontaggio, penso che l'abbia fatto veramente a qualche conferenza. E poi appunto ci sono le foto di lui con il suo gruppo. Penso che ne abbia più di uno di gruppo, perché ci sono anche gli album. Non sono tutti scaricabili, ma qualche pezzo senz'altro lo potete ascoltare. Lui è un violinista, suona il violino da quando aveva 3 anni, mi sembra di aver letto sul sito. E appunto i suoi gruppi sono questo The Bitter Liberals, e poi c'è anche un altro che è Where Sobri, che è un altro gruppo. E le copertine sono molto sul modello un po' psichedelico New Age. Insomma, ho scoperto questo personaggio proprio grazie a questo libro, ne sono veramente rimasto colpito. E questo era nella parte software vulnerabilities del libro. Perché lui penso abbia scritto qualche manuale per il bug hunting. Cioè, nel senso, è uno, mi sembra che lui fosse addirittura laureato in filosofia e si fosse poi occupato appunto della ricerca degli errori nel codice di programmazione sicura. E questo è quanto. Poi ce ne sono un sacco di altri. Tra questi sono rimasto molto colpito dal fatto che tutti quelli che a un certo punto si parla di firewall, honeypot, eccetera, quando si parla di honeypot, praticamente tutti i personaggi intervistati, ma già quando si parlava un po' di firewall o anche di DS, esatto, c'è cioè una specie di roba per cui tutte queste biografie sono tutti ex militari o gente che ha lavorato con i militari. Cioè si va da quelli che proprio hanno lavorato in stretta collaborazione, ad esempio con, che ne so, viene citato l'esercito israeliano, perché uno di questi è appunto una persona che è andata a abitare in Israele, e lui appunto vanta tutte queste collaborazioni, eccetera. Ma anche quando si parla di honeypot, si citano personaggi che hanno fatto parte dell'esercito americano, cioè ex militari, e quindi mi ha particolarmente colpito appunto la scelta effettuata dall'autore del libro, perché appunto presenta questa carrellata di personaggi che sono o delle persone, diciamo, che ha raggiunto i vertici di qualche grossa azienda, in particolare la Microsoft, oppure sono persone con un pedigree assolutamente da militari. Vi inviterei comunque a dare un'occhiata al libro. Ora, anche senza, probabilmente lo troverete anche senza dover spendere un sacco di soldi per acquistarlo. È un libro edito dalla Wiley, che è una casa editrice che fa dei bei libri al solito. Questo probabilmente aveva. cioè non lo so, è uno di quei libri fondamentalmente abbastanza inutili, nel senso che dal punto di vista tecnico è assolutamente vago e se va proprio bene introduttivo, cioè se uno non ne vuole sapere, cioè ne sa proprio veramente poco e vuole una panoramica da 3-4 paginette su le tematiche che vagamente coinvolgono questo tipo di mondo dell'information security, magari va bene perché uno impara dei termini, impara delle cose. Poi ci sono queste biografie che sono un po', penso, dovevano essere il cuore del libro, ma che in realtà sembrano completamente sacrificate, nel senso che le interviste spesso non sono neanche appunto domande e risposte, interviste integrali, sono delle specie di riassunti, sono delle schede, cioè delle schede su questi personaggi. La scelta dei personaggi è appunto abbastanza, è come definirla, personale. Perché hai scelto proprio questi? Perché erano gli amici tuoi? Perché se no non me lo spiego. Però non viene ben dettagliato prima chi sono gli amici tuoi e perché diciamo, hai scelto queste persone piuttosto che altre, visto che non penso che fossero le uniche disponibili. Comunque, questa persona si occupa anche di fare divulgazione, a quanto ho capito, ha anche un programma in radio, in cui spesso appunto intervista degli esperti del settore, ha questo approccio molto commercial governativo, cioè aziende che lavorano per governi, e quindi nulla. Cioè, è comunque un libro cioè deludente se vi aspettate, diciamo, delle cose interessanti, ma nello stesso tempo interessante per capire quanto in qualche modo sia banale e pieno di matti questo tipo di universo dell'information security. In particolare qua si parla di quella americana, ma secondo me è un po' tutto il mondo e paese in questo senso. Boh, nulla, vi invito quindi a dargli un'occhiata, se avete 3-4 ore di tempo da perdere, di più non ne dedicherei onestamente. Si chiama appunto, il libro è uscito nel 2017, ma io non me ne ero accorto, si titola Hacking the Hacker e niente, cercatevelo se appunto avete voglia di capire un po' meglio di che cosa vi sto parlando e toccare con mano appunto la pochezza intellettuale di questo tipo di mondo, ma nello stesso tempo anche magari cavarci qualcosa di interessante in alcune interviste. C'è un'intervista ad esempio anche a Hellman, quello di Diffie Hellman, che è una persona un po' stramba pure lui, sì, che sì, però sì, diciamo, c'ha la cosa di buona che rispetto a tutti gli altri del libro, quantomeno è uno che si batte per il disarmo nucleare e ha scritto pure un libro che non ho ben capito bene cosa c'entra, e io sono rimasto anche un po' colpito diciamo, da questo accostamento. Lui praticamente ha scritto un libro con la moglie in cui si parla di come loro hanno salvato il proprio rapporto e da questo si traggono alcune, penso, metafore interessanti, almeno lui ne fa un parallelo su la questione del disarmo nucleare. C'è una specie di manuale in cui ti spiego come ha salvato il matrimonio eppure come si salva il mondo tutto in una botta sola. Insomma, se volete sapere tutte queste cose che vi sto dicendo e molte di più, perché appunto il libro l'ho scorso molto molto velocemente, cercatevelo. E ora vi lascio un altro po' di musica, intanto mi preparo per continuare la trasmissione. Llama. la prossima notizia ci proietta di nuovo sul lagone della guerra di spionaggio sull'internet. Questa volta vi parlo di questo gruppo di hacker governativi iraniani che si chiama Iridium, che in queste settimane pare aver lanciato una grossa campagna di razzolamento di dati relativi a una particolare piattaforma che produce la Citrix, cioè sostanzialmente si tratta di macchine per il monitoraggio di altre macchine. In bella sostanza, spesso questi oggetti vengono lasciati con password di default o comunque molto deboli, e questo gruppo pare abbia lanciato questa campagna di password spraying, così la definiscono, che sarebbe ne provo tanto, provo su tantissimi apparati con password di default o password semplici, e vedo un po' che cavolo mi raccatto. I siti interessati da questa cosa sono per la maggior parte siti governativi americani, e appunto la paternità di questo attacco viene riferita a questi hacker iraniani, e quindi niente, vi volevo tenere aggiornati su cosa capita in questo buffo mondo. Pare che i dati comunque sottratti in questo modo mi pare abbastanza semplice, almeno da quello che capisco dall'articolo, sono tipo 6 tera di dati sensibili, appunto perché magari riguardano la struttura di reti interne o di reti appartenenti a enti in qualche modo governativi legati agli Stati Uniti. E quindi non è poca roba. Diciamo che si parla di una cosa abbastanza comune in questo dell'internet contemporaneo. Insomma, gli stati si fanno appunto la guerra in questo modo, giocando un po' a bucare le infrastrutture l'uno dell'altro. E niente, questo si inserisce probabilmente in una diatriba aperta ormai da anni tra gli Stati Uniti e il Medio Oriente, e quindi nulla, vi volevo rendere edotti di questi piccoli episodi che magari poi si inseriscono in episodi più brutti in quel del Medio Oriente, che è una polveriera a cielo aperto, e vediamo un po' che ci riserverà cosa ci si riserverà, insomma, i prossimi mesi a riguardo. Credo poco di buono, ma tant'è. E un altro pochino di musica, e poi magari vi parlo un pochino di questi warm up di Hack Meeting che avevo annunciato all'inizio. Ah, prima di parlare di questi warm up e di Hack Meeting, vi do ancora due notizie al volo che mi sono accorto stavo saltando, ma sono abbastanza interessanti. La prima, che è stata ritrovata uno zero day che qualcuno stava sfruttando in Google Chrome. Si tratta, non hanno rilasciato molti dettagli, però si tratta di una use after free. E qualcosa di molto interessante è questo dettaglio, perché la maggior parte dei bug che si trovano nei browser sono quasi sempre, o molto spesso ultimamente, riferibili a questa tecnica, a questo use after free, che ho tentato di spiegare in qualche altra trasmissione, e ci dedicheremo probabilmente penso, tra 2 settimane, un warm-up di Hack Meeting proprio a questa use after free. Vi terrò aggiornati a riguardo, non proprio in questa specifica vulnerabilità di Chrome, ma in generale su la comprensione di che cos'è e perché è un problema questa cosa delle use after free, e quindi nulla, ci tenevo a dirvi anche questa cosa, che a voi vi cambia poco, nel senso che aggiornate Chrome e tant'è. È interessante che, appunto, colpendo una componente in realtà che è comune a diciamo, la parte core di Chrome, interessa sia Windows che Apple che Linux, cioè praticamente ogni tipo di sistema operativo sul quale gira Google Chrome, o meglio le versioni, appunto, vulnerabili. Quindi di fatto si tratta di uno zero day multipiattaforma che permette di eseguire codice da remoto sulla vostra macchina, con i privilegi dell'utente che sta facendo girare Chrome. È una cosa mica da poco, insomma, non potevo non dirvela. E l'altra cosa che vi dico velocissimamente, ne avevamo parlato qualche mese fa, la National Security Agency ha deciso di rilasciare ufficialmente, qui mo c'è davvero, questo Ghidra 9.0, che è la propria piattaforma che utilizzano internamente per il reverse engineering. È un tool di reverse engineering tipo AIDA Pro o simili. Era citato nel leak Vol 7 di WikiLeaks di qualche anno fa. E ora la National Security Agency ha deciso, appunto, di renderlo pubblico, così, ma a sbeffeggiare, dire: ah, a noi che ci frega, noi ve lo facciamo anche, ve lo regaliamo, tiè. E io non sono ancora andato a guardarmelo, ma sicuramente lo voglio fare. Assicurano e spergiurano dalla National Security Agency che cioè che la versione di Ghidra non contiene backdoor, quindi non è un modo per farvi salire del software della National Security Agency sulla vostra macchina, anche se non so perché ci dovremmo fidare, cioè, nel senso che finché non rilasciano completamente il sorgente, qualcuno non ci ha guardato dentro, non è che ci si può credere sulla fiducia. È vero che esiste comunque, hanno aperto un bug tracker per fare i report dei bug, in particolare quelli di sicurezza. C'è una comunità che ci sta lavorando. In questo articolo citano questo Hacker Fantastic, che ha sottolineato come questo oggetto in realtà abbia una modalità di debug, diciamo, che si binda su una porta alta del sistema operativo che state utilizzando, perché, appunto, essendo in Java è multipiattaforma, e lascia aperto però a tutte le interfacce la porta 18.001. Quindi, se lo usate ad esempio in una LAN, probabilmente chiunque si può appiccicare scusate per il colpo di tosse, alla vostra sessione e interagire in qualche modo con il sistema che sta facendo girare questo Ghidra 9.0. E gli è stato fatto notare, hanno detto che lo metteranno a posto subito, al più presto. E quindi niente, se siete curiosi come me, il logo è tutto un serpente che si mangia la propria coda, è tutto rosso e giallo su sfondo nero, è veramente tamarrissimo. E il sito, hanno aperto un sito apposta che ghidra-sre.org, dovrebbe esserci anche, cioè dovrebbero metterlo anche sul GitHub della National Security Agency che avevo citato l'altra volta, anche il codice sorgente. Per ora pare non ci sia ancora, nel senso che ora guardo. Però no, secondo me non c'è, non l'hanno ancora messo, non l'hanno ancora messo, c'è infatti un avviso anche nell'articoletto che stavo leggendo che will be available soon, quindi sarà presto disponibile, ma per ora non c'è. Cioè per ora se volete vi scaricate e lo provate così com'è, se vi fidate. Ma... Cavolo, che pezzaccio, mi dispiace quasi parlarci sopra, però la puntata va abbastanza per le lunghe, ho già fatto 40 minuti buoni, quindi mi devo un pochino spicciare. Allora, si diceva questi warm-up che si terranno a Firenze, vi cito quelli di Firenze perché dalle retrovie sappiamo che ve ne saranno anche in altre città, ma per ora non è ancora uscito nulla di ufficiale, quindi non vi so informare. Dal sito di IFDU, che è l'ECLAB fiorentino che si ritrova in quel della Polveriera tutti i mercoledì dalle 6 circa in avanti. E vi cito appunto qual è il programma di marzo-aprile di questi warm-up. Allora, si principia il 13 marzo all'ECLAB IFDU in Polveriera per un appuntamento che è più o meno mensile, ce ne sono già stati due, in realtà che erano appunto warm-up di Hack Meeting, ma veramente i primi e quindi sono stati pubblicizzati a parte perché non era ancora chiaro un programma. Comunque la terza puntata di questa roba che ora vi vado a spiegare si terrà mercoledì 13 alle ore 19. Vi leggo velocemente l'abstract, appuntamento mensile all'ECLAB in Polveriera per capire e approfondire le tecnologie smontandole e giocando. Ogni volta verranno proposti dei mini laboratori guidati di cose a carose usando risorse disponibili online, Capture the Flag, Insecure VM, robe simili, ovvero ambienti con bug o vulnerabilità create apposta per capire come funziona questo buffo universo. E tant'è. Nello specifico di quello di mercoledì probabilmente si parlerà, tra le altre cose, si riprenderanno il concetto di SQL injection perché era già stato introdotto nelle altre due con delle piattaforme online, diciamo di piattaforme web con dei problemi. Ne sono scritte male apposta, diciamo, con del codice appositamente insicuro. Nello specifico si sta utilizzando quella dell'OWASP, che è una specie di sito di commercio elettronico per succhi di frutta. E appunto ci siamo, l'altra volta abbiamo introdotto diverse tipologie di bug, abbiamo visto anche le SQL injection, ci ritorneremo sopra per spiegarle ancora un po' meglio e poi introdurremo le Unsecure Serialization, che è una classe di... diciamo di bug abbastanza ganze, ma un poco più complesse da comprendere di quelli che abbiamo visto finora. E quindi niente, se siete curiosi, questo mercoledì in quel della Polveriera alle ore 19 si parlerà di tutte queste cosine. Vediamo un po' poi cosa c'è. Ah, eccolo qua. E il 14, il giorno dopo, presso l'occupazione di Viale Corsica, Viale Corsica 81, verrà proiettato il documentario Zero Days. Si tratta di un documentario di Alex Gibney, girato nel 2016, sottotitolato in italiano e in inglese, ma non è un inglese difficile. È una roba molto interessante. Vi leggo anche qui l'abstract, che appunto dice che è interessante. Cioè, si tratta di un'interessante ricostruzione della vicenda Stuxnet, un sabotaggio ai danni di una centrale nucleare iraniana compiuto attraverso un malware, cioè un virus, da parte dell'intelligence israeliana e statunitense. L'operazione avrà delle conseguenze piuttosto imprevedibili. Il documentario, realizzato da un giornalista esperto in tema di intelligence, è veramente utile per comprendere il modus cogitandi dietro alla geopolitica di quell'area del Medio Oriente. Offre anche uno spaccato di quella che viene definita dai media cyber war, ma che altro non è che guerra a tutti gli effetti. E questa è appunto una notizia che si inserisce, volendo, con quanto abbiamo detto prima, in relazione appunto a quel data breach, che è operato ad opera probabilmente dell'intelligence iraniana, ai danni dell'azienda Citrix e in particolare, appunto degli apparati Citrix in utilizzo al governo degli Stati Uniti. E quindi un tema di attualità, anche se il documentario non è recente, ma è comunque veramente ben fatto. Si continua poi venerdì 15 alle ore 21, la proiezione del film è alle ore 21, se non l'avevo detto prima, questo in Viale Corsica, Zero Days. Vi dicevo, venerdì alle ore 21, presso l'Ateneo Libertario in Borgo Pinti 50R, si terrà una serata anche per tirare su due soldi per i servizi ai server autogestiti, si parlerà appunto di servizi ai server autogestiti perché l'autogestione è importante su internet, oltre che forse l'unica via per la sopravvivenza di una rete utile alle persone e non mero strumento di controllo o centro di addestramento per consumatori. E questo è quanto. Si tratta appunto di una presentazione un po' di qualche servizio autogestito. L'ottica è appunto quella che internet si presterebbe bene per la costruzione di servizi gestiti da piccoli gruppi per altri piccoli gruppi, nel senso che il grosso monopolio che le piattaforme enormi tipo Facebook, Instagram, Google, insomma tutte queste grossissime piattaforme che stanno online, sono qualcosa di abbastanza strano, perché non sarebbe affatto né difficile né impossibile, che ne so, gestire la propria mail direttamente, non c'è bisogno di chiederla a Google. I protocolli su internet sono ben spiegati, il software c'è, però pochissime persone scelgono di gestire autonomamente qualche servizio, così come potrebbe essere possibile, che ne so, gestire le proprie comunicazioni tipo instant messaging, no? Ci sono dei collettivi in Italia che stanno guardando con favore alla piattaforma Mastodon, che fa proprio questo. E, insomma, ci sarebbero tantissime opportunità. Spesso ci si arena, per il fatto che forse, cioè, il modello dominante che ti viene presentato come il più comodo e anche l'unico possibile è quello, ed è vero che nell'ottica di estrema e un po' folle efficienza che ormai è interazione così stretta che abbiamo con questi oggetti, è difficile. Senza una sorta di passaggio mentale, insomma, è difficile scegliere una via, che comunque comporta dello sbattimento o comunque comporta la non completa efficienza che può darti una struttura come Google, che probabilmente ha migliaia di persone che lavorano a sorvegliare che sia sempre tutto su, eccetera, no? Cioè, nella nostra ottica, ormai completamente un po' folle, secondo me, dell'essere continuamente sempre online con i servizi completamente sempre accessibili per questo meccanismo di strana dipendenza, spesso tutta psicologica, perché poi nella pratica, fino a 20 anni fa, tutta sta roba non c'era, però il mondo andava avanti uguale, diventa probabilmente l'unica via, diventa quella di affidarsi a una grossa multinazionale che ti possa garantire tutta questa comodità, tutta questa facilità, o pseudo facilità di accesso, tutto questo continuo collegamento, che magari su una piattaforma autogestita non sarebbe così. Perché? Perché appunto sarebbe fatta con un'altra ottica. Però vabbè, ci sarà modo di parlarne appunto venerdì 15 alle ore 21 in quel dell'Ateneo Libertario. Si continua poi il mercoledì successivo, ci diamo un po' di pausa. Il mercoledì 20 marzo alle ore 19 presso lo studentato a Ponte di Mezzo, in via Ponte di Mezzo 27. E qui c'è diciamo una serata piuttosto ricca in cui verrà proiettato il documentario Citizen 4. È un documentario del 2014, anche qui cito. Vi leggo l'abstract che si fa prima, è un documentario sulla vicenda Snowden. Snowden è un ex lavoratore della National Security Agency che rivelò al mondo diversi progetti segreti di controllo e monitoraggio sulle comunicazioni mondiali utilizzati dall'intelligence americana. La vista è trattata dal punto. Oh, qui c'è un errore, ora va corretto perché questa è una frase che in italiano non torna. Comunque, diciamo, il film è trattato dal punto di vista di Snowden nei giorni della sua fuga dall'America. Si tratta di un bel documentario che, per quanto valga, ha anche vinto l'Oscar come migliore documentario nel 2015. La vicenda Snowden, sebbene caduta nel dimenticatoio, ha segnato una vera e propria cesura nel mondo della comunicazione digitale, aprendo sostanzialmente alla consapevolezza diffusa di Internet come macchina di sorveglianza statale, a cui si somma l'Internet della sorveglianza commerciale delle grandi corporation, Google, Facebook, eccetera. Rimane aperto il problema di cosa farsene di quel che resta. E infatti è un problema aperto. A seguire ci sarà anche un workshop dal titolo La banalità del malware, parte prima. Un malware è un software studiato apposta per interagire in maniera stramba e dannosa con i sistemi in cui viene eseguito. Dietro questi programmi vi è una fiorente industria legata alla sicurezza informatica, a cui partecipano apparati statali, malavita e corporation. Ma quanto è complesso lo sviluppo di un malware? Quanta parte solo e semplicemente fuffa in un mercato pompato ad arte? Per rendercene conto, proveremo a studiare alcuni recenti malware per analizzarne le caratteristiche e capire quanto lavoro ci sia dietro e in che modo la terminologia utilizzata mascheri spesso caratteristiche piuttosto banali. Si tratta della prima parte perché probabilmente vi sarà un'appendice del workshop durante l'ACMeeting, appunto il 30-31 maggio, 1-2 giugno al Next Emerson a Firenze. Passiamo quindi velocemente ad aprile. E mercoledì 17 aprile c'è l'ultimo appuntamento mensile con quello che si era citato prima, insomma, questo appuntamento con i giochini tipo Capture the Flag, eccetera, non ve lo sto a ripetere. Sarà appunto l'ultimo di questi, probabilmente sarà dedicato, tra le altre cose, all'analisi, come ho anticipato prima parlando di Use After Free, sarà appunto dedicato a spiegare e a fare qualche esempio di questa tipologia di bug chiamata Use After Free. Il 27 e il 28 di aprile, che sono sabato e domenica, si tiene invece al Next Emerson Brugole e Merletti, che è una 2 giorni di workshop e mani in pasta, 2 giorni per riempire l'Emerson di pittura, sculture, installazioni, arti volanti e idee illustrate. L'arte dentro, fuori, attraverso le nostre vite e i nostri muri. Brugole e Merletti incontra il NEMA, insomma. Il NEMA sarebbe il Next Emerson Museo autogestito, che è un progetto in quel dell'Emerson che vede da qualche mese il tentativo di creare un polo museale di arte che piace a noi, insomma, che piace a noi sostanzialmente, e che venga appunto portato avanti nell'ottica dell'autogestione, anche in aperta critica appunto il complesso mercato del turismo, dei musei a 40 e passa euro, delle basse alte stagioni, insomma quello che vediamo accadere in tutto il resto della città quando si parla di cultura di questo tipo. E quindi in pratica di che si faranno? Ci saranno workshop pratici di elettronica, costruzione, autoriparazione, artigianato, idee geniali e arti sottovalutate, live painting, installazioni, allestimenti in diretta appunto per questo progetto Next Emerson Museo Autogestito. E si tratta appunto anche questo di un warm-up di ACMeeting perché, come si è più volte spiegato, appunto. ACMeeting aspirerebbe a una visione ampia del metterci le mani sopra, dove c'entra un po' di tutto, dalla meccanica al programmatico. pacioccare coi colori. E questo è quanto. Nello specifico di Brugole e Merletti, probabilmente ne parleremo sicuramente, anzi, nelle prossime puntate per dettagliare meglio il programma. Ora, mancando ancora 2 mesi, non è ancora così chiaro, quindi aspetto ancora un attimino. Con questo chiudo i warm-up per i mesi di marzo-aprile a Firenze. Vi invito a fare un salto almeno a qualcuno di questi per vedere un po' che diciamo, l'atmosfera di questo tipo di incontri, che sarà quella che troverete, spero, super amplificata ad ACM Meeting a fine maggio. E quindi niente, se siete curiosi, il programma è molto fitto. Peraltro ci sono già dei warm-up in calendario alcuni mancano ad aprile e altri saranno anche a maggio, quando proprio andiamo quasi sotto ad ACM Meeting. Quindi in questi 3 mesi, diciamo, il baraccone, se così lo vogliamo chiamare, di ACM Meeting sarà parecchio, parecchio attivo in città. Speriamo di non annoiarvi, ma di interessarvi. E questo è quanto. Vi saluto per questa sera. Vi lascio ancora a un pochino di musichina afrobeat, funky e simili. Vi do appuntamento al prossimo lunedì e buonanotte a tutte e a tutti.